Sai, bimba, mi piace pensare che tu sia abbastanza lucida persino ora, da sapere che non c'è nulla di sadico nelle mie azioni. Forse nei confronti di tutti quegli altri, quei buffoni, ma non con te. È tua figlia. Una Uma Thurman tumefatta e piangente, stesa al suolo, e la voce italiana di Bill, il mitico Bill di Tarantino. È l'omaggio della Rosa Purpurea a David Carradine, scomparso in settimana a 73 anni, con l'attore della serie TV Kung Fu, dei Cavalieri delle Lunghe Ombre, del Lungo Addio, ma anche l'attore di Scorsese e di Bergman, di oltre 200 film, scompare uno dei volti più autentici e intensi del cinema d'azione americano. La Rosa Purpurea vuole ricordarlo così, e con questa apertura anomala entriamo nel vivo della nostra puntata che vi racconterà quattro dei nuovi film che arrivano nelle sale cinematografiche italiane, a partire da Terminator Salvation, e vi farà ascoltare un paio di interviste con un attore assolutamente sulla cresta dell'onda come Filippo Timi nei cinema italiani con Vincere di Marco Bellocchio, e con un attore e doppiatore come Pino Insegno che celebra invece l'Oscar del doppiaggio. Ma entriamo come sempre nel clima della sala cinematografica con il nostro audio sommario. Ma come fai a vincere sempre? Imbroglio meglio di voi. Mi piacerebbe perdere per una volta. Fa attenzione a lui. Non è come quelli che hai fregato finora. Si chiama davvero Cash? Così mi chiamano i miei rivali. Appena l'ho vista, ho capito che io e lei faremo molta strada insieme. E dove andiamo? Me lo dica lei. Sono la madre di Sophie. Non voglio niente e non spero più niente. Che sensazione ha provato quando le hanno mostrato sua figlia? Non me ne importava niente che fosse mia figlia. Tu non esisti, vattene. Perché mi guardi come se fossi un fantasma? Tu mi hai messo al mondo, sei tu mia madre. Mi hai sempre odiata. È il mio aiutante, gli insegno il mestiere. Sarebbe bello stare sdraiata con il tuo bikini. Entra, Georgie, così mi libero di te. Lo sapevo. Sapevo che stava per accadere. Ma questo non è il futuro da cui mi aveva messo in guardia mia madre. E in questo futuro non so se riusciremo a vincere questa guerra. Sono John Connor. E come avrete capito, cominciamo con il film che potrebbe dare un volto nuovo, chissà, alla classifica degli incassi nei cinema italiani. Più tardi sentiremo Daniela Fagion che ci racconterà come stanno le cose per il momento, se qualcuno sta riuscendo a mettere in crisi Angeli e Demoni. Però Terminator Salvation, il ritorno della saga dei Terminatori avviata da James Cameron nel 1984, è sicuramente il film più forte sotto il profilo dell'appeal commerciale di quelli che arrivano nelle sale in questo weekend. 1984 quindi l'inizio, poi 1991 Terminator 2, 2003 Terminator 3 e 2009, sei anni dopo, il quarto capitolo di questa avventura. Insomma, ci sono voluti 25 anni per mettere insieme quattro film. Diciamo che ai produttori di Terminator sicuramente piace far salire l'attesa per il proprio pubblico. E allora facciamoci raccontare Terminator Salvation dal nostro Diego Giuliani. Combattiamo da tanto tempo. Le macchine ci superano numericamente, ma gli umani hanno una forza che non può essere misurata. 2018, un'America post-apocalittica reduce dal giorno del giudizio. A 14 anni dalla guerra nucleare del terzo episodio, il pianeta è ormai dominato dalle macchine. Detriti e scheletri di un'umanità schiacciata sono i plumbei scenari del futuro prossimo, in cui sparuti gruppi di ribelli cercano ancora disperatamente di opporre resistenza ai Terminator del titolo. Scenari post-atomici e atmosfere opprimenti lasciano in principio ben sperare. A 25 anni dal film di James Cameron, che nel 1984 aveva dato il via alla saga, è però cambiato tutto. Con Arnold Schwarzenegger passato alla politica e gli effetti speciali al sopravvento, le macchine ribelli hanno vita facile. 115 minuti di battaglie quasi ininterrotte, specchio dell'attacco che, a differenza dei precedenti episodi, è già stato sferrato contro gli umani. Sapevo che stava per accadere. Ma questo non è il futuro da cui mi aveva messo in guardia mia madre. E in questo futuro non so se riusciremo a vincere questa guerra. Sono John Connor. A trasmettere dalle disturbate frequenze dei ribelli è il capo della resistenza. Volto adulto del John Connor conosciuto negli altri film è quello del Batman Christian Bale. Smessa la maschera del Cavaliere Oscuro, l'attore britannico è passato con disinvoltura da un blockbuster all'altro con il solo e dichiarato obiettivo del divertimento. I never looked at it as a franchise. I look at it just as a movie that I would enjoy seeing myself and non ho mai visto differenze tra film e film, guardo solo al mio divertimento, al mio lavoro, sono abbastanza eclettico nei ruoli. Quando me ne danno l'opportunità mi impegno al massimo, cerco di dare il mio stile, la mia impronta al personaggio. Non credevo che avrei fatto l'eroe. Ci sono tanti bellissimi film indipendenti, sono fortunato, ho avuto finora il privilegio di girare in grandi produzioni questi grandi film, non avrei mai pensato che mi sarebbe successo. Fatta la tara da esplosioni, variegate schiere di mutanti e avveniristici effetti speciali, spazio per gli attori ne resta però davvero pochino. Tutto sommato poco male vista la ridotta gamma di espressioni concesse dalla sceneggiatura ai due principali protagonisti. Christian Bale alterna quella dell'arrabbiato a quella dell'arrabbiatissimo. Sam Worthington incarna invece alla perfezione la fissità metallica che gli ha regalato la sua natura androide. Questo è qualcosa che non abbiamo mai visto prima. Il mio nome è Marcus Wright. Credi di essere umano? Io sono umano. Tante insomma le ingenuità di McGee e compagni. Il regista delle Charlie's Angels non è certo James Cameron. Christian Bale poi appena la pallida ombra dell'uomo senza sonno e del multiforme Bob Dylan firmato Todd Haynes. L'eterno dibattito sui limiti della scienza si intravede appena logoro in filigrana, ma il problema di fondo è piuttosto un altro. Quello scritto nel DNA della sceneggiatura e smascherato dallo stesso attore. Non illudiamoci, aveva detto, la gente al cinema non viene a vedere noi, sono le macchine le vere protagoniste. Unico a sconfiggerle, come accaduto negli Stati Uniti con Una notte al Museo 2, potrebbe essere il botteghino. Altrimenti, minaccia ancora Christian Bale, potrebbero andare avanti per sempre. Tutto dipenderà dalla risposta del pubblico, non abbiamo fretta. Comunque, penso che ne faremo un altro. Voglio dire, vediamo. Avevo 17 anni quando ho visto Terminator 2 e non siamo particolarmente preoccupati. Terminator, dopotutto, contiene le possibilità di continuare all'infinito le sue storie. E grazie a Diego Giuliani, questo era Terminator Salvation, il film con il quale abbiamo aperto la nostra puntata della Rosa Purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, seconda parte del nostro programma, dopo aver assaggiato il futuro, speriamo non sia così tremendo come quello di Terminator Salvation, cambiamo decisamente clima con un film che in chiave godibile ci racconta la grandeur di un ladro truffatore d'altri tempi. Un cast importante dove spiccano i nomi di Jean Reno, Valeria Golino e del protagonista Jean Dujardin. Il film si titola Cash ed è un titolo nel quale echeggia il valore principale di questo personaggio. Lo ha visto per noi Micaela Bellisario. Immaginate un grand hotel in una giornata di sole. Per ovvie ragioni per ora posso solo dirvi che si trova sul mare. Niente di più. L'importante è che tra qualche giorno uno dei suoi clienti depositerà in cassaforte una valigetta contenente diversi milioni in diamanti. Cash è un truffatore a fascino, eleganza, audacia, quasi un Arsenio Lupin. Quando suo fratello viene ucciso, decide di vendicarlo a modo suo, senza armi né violenza, ma organizzando una truffa per trafugare una valigia piena di diamanti. Il compito non è facile, però, perché Cash sta per essere presentato al futuro suocero, a capo di un'organizzazione criminale al centro di un'inchiesta internazionale coordinata da una tenace ispettrice dell'Europol. Mia figlia parla molto di lei. E per sua figlia lei è un mito. Il suo nome è veramente Cash? È un'invenzione dei miei nemici. Dovuta ai suoi successi. Così, a quanto ho capito, lei dirige una galleria d'arte, non è vero? Ah, vi presento la signorina Giulia Molina. Buongiorno, buongiorno. Il cliente di cui ti parlavo. Ah, certo. Vi ringrazio per l'invito. Anch'io sono un appassionato d'arte. Era destino incontrarci allora. Complimenti, signora. Complimenti. Vi prego di scusarmi. Ti raggiungo dopo. Sì. Non credo che al papparino ti piaccia molto. Il padre è il lavoro tuo. Io penso alla figlia. truffa, Cash e il suocero si alleano subito, riuscendo a far credere all'ispettrice dell'Europol, interpretata da Valeria Golino, che è vicina al colpo della sua vita, mettere in galera tutta la banda. Niente di più sbagliato. In un'avventura del genere tutti mentono, blefano e cercano di essere qualcun altro. I complici a volte si rivelano traditori e i traditori complici. 12 milioni di euro. 10% per voi. Pensate di essere in grado? 30. 15. Se riesci a fare un Verdi alla 14. Conosci il mio handicap? Cast di tutto rispetto: Jean Dujardin, Jean Reno, Valerio Golino. È un thriller adrenalinico, Cash, ricco di colpi di scena. Il film mette in campo una serie di raggiri a cascata in puro stile Ocean Eleven, per capirci. La soluzione dell'enigma non arriva che alla fine, poco male. C'è talmente tanta azione in Cash che cade presto la presunzione di individuare complici e traditori, vittime e carnefici. Si finisce per lasciarsi trasportare da una storia che coinvolge dall'inizio alla fine. E questo era Cash, un film, come abbiamo sentito, che piacerà a chi ha amato i vari Ocean's Eleven e dintorni, insomma quel mondo del malaffare che è però così simpatico e affascinante. E andiamo avanti aprendo la prima finestra sul DVD Game di questa settimana. Come sempre, tre possibilità per indovinare un film misterioso e provare a vincere il DVD proprio di quel film. Allora ascoltiamo subito la prima traccia. Fagiolino, ciao! Ciao Sofì, ciao! Il sugo l'ho fatto io, eh? Grazie. Fagiolino! Vieni da zio, vieni dallo zio Fagiolino, dallo zio! E vola Fagiolino! Vola Fagiolino! Appena mangiato? Rosa Purpurea, @radio24.it è l'indirizzo di posta elettronica per giocare, per dirci secondo voi di che film si tratta. Avremo altre possibilità più tardi nel corso della trasmissione. E a proposito di DVD da vincere, c'è un altro modo in queste settimane per provarci qui alla Rosa Purpurea, attraverso la nostra iniziativa Io in un film, nella quale vi chiediamo di raccontarci in quale film, in quale personaggio vi siete immedesimati maggiormente. Antonella Jacoponi di Cascina, provincia di Pisa, ha scelto La casa degli spiriti di Bille August per la bellezza, scrive, e la vividezza delle figure femminili interpretate da attrici di grande calibro che ne fanno personaggi a tutto tondo, donne coraggiose, ammirevoli, indimenticabili, e per l'ambientazione e gli argomenti trattati che sono, aggiunge Antonella Jacoponi, i miei preferiti: la storia, la politica, l'attualità. Questa è la scelta di Antonella Jacoponi, che riceverà a casa un DVD tratto da un grande capolavoro della letteratura. Vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica, il solito, larosapurpurea@radio24.it. Diteci in quale film vi siete particolarmente immedesimati. E andiamo a dare un'occhiata ora a come sono andate le cose al botteghino. 7 giorni fa c'era da verificare se qualche nuova uscita fosse in grado di minacciare la leadership di Angeli e Demoni. Vediamo com'è andata, ci racconta tutto nella Screen Parade Daniela Fagion. Due nuove entrate in top 5, un nuovo traguardo per Angeli e Demoni. Quinto posto intanto per lo stile di Coco Avanchanel, che debutta con 307.000 euro. Di voi due chi è la più giovane? Se mi annoio mi sento vecchissima. E stasera quanti anni ha? Stasera ho 1000 anni. Stabile al quarto posto Vincere di Marco Bellocchio, che aggiunge 387.000 euro a quelli già incassati e supera il 1.100.000. Debutto sul terzo gradino del podio per il thriller dal sapore nordico Uomini che odiano le donne, quasi 950.000 euro in 3 giorni. Ti dico come funzioneranno le cose, tu fa solo sì con la testa, è chiaro? Seconda settimana al secondo posto per Una notte al museo 2, la storica compagnia di Ben Stiller è appena sotto 1.500.000 nel fine settimana e supera i 3.250.000 complessivi. Imprendibile ormai Angeli e Demoni, 1.800.000 scarsi nel fine settimana, un totale da 14.700.000, quarto incasso di stagione in 3 settimane. Se Dio ha dei problemi non sarà per quello che abbiamo fatto, ma per quello che stiamo per fare. E come avete sentito, al quarto posto della graduatoria della classifica di incassi nel botteghino nostrano c'è ancora Vincere di Marco Bellocchio, il film che ha rappresentato l'Italia al Festival di Cannes e che ha già superato appunto 1 milione di incasso globale. Un film che sta andando molto bene nelle sale, con un pubblico che via via con il passaparola lo sta sostenendo, e noi abbiamo avuto la possibilità di incontrare il protagonista principale, al maschile almeno, di questo film, Filippo Timi, che in persona il giovane Mussolini prima e il figlio di Mussolini poi, al fianco di una straordinaria Giovanna Mezzogiorno. Filippo Timi ci parla di questo suo personaggio, ma anche di qualcosa di più, del suo modo di intendere la carriera di attore e dei suoi progetti. Lo fa incontrando Barbara Righini per le strade di Milano. Ascoltiamo l'intervista esclusiva qui alla Rosa Purpurea. Ti sei trasformato nel Duce per il film. Fisicamente la mimica è impressionante, guardando la si nota molto, perché appunto sono, per chi non l'ha visto ancora, sono montati immagini di repertorio e immagini girate ora con te come protagonista. Questo lavoro sulla mimica. Guarda, io parlerei anche di mimica interna, cioè con Marco non abbiamo cercato, no, attraverso trucchi di stempiarmi, di, no, accentuare alcune parti fisiche, quindi c'è stato tutto un lavoro chiaramente di una sintassi gestuale, quindi un certo tipo di sguardo, di muovere il corpo, di atteggiamento, soprattutto una mimica interna nello sguardo, cioè proprio immaginare cosa lui potesse immaginare. Poi appunto interpreto il giovane Mussolini, no? E quindi avevo negli occhi quello che lui sarebbe diventato, cioè avevo visto appunto i materiali di repertorio. Questa guerra sarà una guerra rivoluzionaria, darà col sangue alla ruota della storia il movimento. Sì. Non sarò mai contento io, devo salire ancora più in alto. Sento di avere il dovere di essere diverso da tutti quelli che accettano la propria mediocrità. Ormai sei conosciuto anche da chi il cinema non lo segue di professione, non lo segue da vicino, cioè sei un volto ormai noto. Qual è il tuo rapporto con la notorietà? No, nel senso, io non mi sento appunto noto. Fino a un po' di anni fa, io sono una persona che cammina molto da sola, vado al ristorante da solo. Certi momenti soffro un po' di solitudine, no? Allora pensavo, magari un giorno diventando famoso non mi sentirò più solo. Chiaro, ho una visibilità, però è molto collegata alle cose che faccio. Ecco, parlaci un pochino delle tue scelte, perché sono sempre personaggi, almeno gli ultimi, con caratteri molto forti. Mi viene in mente il protagonista di Signorina F, piuttosto che il precedente di Salvatores, Come Dio Comanda. Rino, un personaggio molto caratterizzante. Sì. Evidentemente i registi vedono in me questo strano, no? Questa sensibilità abbinata a una forza, magari, credo, a una spregiudicatezza, no? Poi io la celo molto quando sono nel quotidiano. Non che ne abbia paura, ma è come che non la prova a tenere a bada, cosa che invece a teatro esce fuori con violenza, insomma, non sono pronto a buttarmi nel fuoco, il che è sano. Secondo me bisognerebbe andare in fondo ai baci anche nel quotidiano, no? Cioè, chiaro che nel quotidiano è complicato, se non impossibile, perché è pericoloso. Ascoltami un attimo, ma se vuoi te ne puoi andare. Devi capire che se mi arrabbio c'è una ragione. Se lo consegnavi con la stronza della professoressa, lo dava all'assistente sociale e tu finivi dritto in istituto. E questo è quello che vuoi. Ti ho detto che non l'ho consegnato, ma tu non mi credi. Basta che sbagliamo una volta e siamo fottuti per sempre. Dopo Come Dio Comanda, dopo Vincere, quali altri progetti hai in cantiere? Se hai già girato un altro film, dacci qualche dettaglio. Subito dopo il film di Marco ho girato un altro film, non so quando esce. Un esordio di Giuseppe Capotondi, è un noir, si intitola La doppia ora, con Xenia Rapoport, bravissima attrice. È un noir, quindi non posso spiegare cosa succede, perché insomma, eccetera. Per il futuro ancora, guarda, proprio davvero non lo so. Ora parto per New York, poi Shanghai e poi Russia per portare in giro alcuni film, appunto, alcuni festival. Filippo Timi alla Rosa Purpurea per parlarci di Vincere e dei suoi nuovi progetti. In apertura di questa terza parte della Rosa Purpurea vogliamo proporvi un piccolo film indipendente che arriva dall'Irlanda e che 2 anni fa ha sbaragliato i festival di mezzo mondo, vincendo premi a Londra, Toronto, San Paolo e Cannes e aggiudicandosi il primo premio assoluto al Torino Film Festival del 2007, che fu il primo presieduto da Nanni Moretti. Ora, provvidenzialmente, la distribuzione Mediaplex lo propone agli spettatori italiani. Si intitola Garage ed è diretto da Lenny Abramson. Josie? Scusi, signor Gallagher. Di cosa ti scusi? Niente, ho fatto solo un giro. Beh, questo non è un reato. No. No. Rilassa il fianco. Vogliamo aprire? Ci penso io. Josie è un uomo di mezza età che ha passato gli ultimi 20 anni a gestire una stazione di servizio in un isolato paesino della campagna irlandese. Gentile, sempre sorridente, Josie è considerato un po' come lo stolto del villaggio, oggetto di benigna tolleranza e di qualche sfottò di tanto in tanto. Josie è un sempliciotto, un solitario, un disadattato, ma a modo suo è felice e sereno. La sua routine, dove il semplice spostamento della posizione delle confezioni dell'olio motore diventa un evento, dovrà misurarsi con l'arrivo di un adolescente, David, mandato dal padrone a dargli una mano per prolungare l'orario di apertura durante l'estate. Salve. Salve. Mi manda il signor Gallagher. Quindi? Sono David. Josie. Bene. Verrò a lavorare nei weekend. Oh, bene. Non sei fortunato, ma saremo occupati. Certamente. Anche David è un solitario, un nerd, snobbato dagli amici. I due un po' si somigliano e in fondo si piacciono. Spesso finiscono le serate a bere birra lungo i binari della ferrovia. Josie torna ragazzo, è uno della compagnia, per una volta non è giudicato. Sente crescere dentro di sé anche quella voglia di una donna da tempo repressa dal suo sentirsi inadeguato e ridesta le sue attenzioni per Carmel, la commessa del negozietto. Carmel? Che cosa ti porta in città? Devo andare in banca. Bene. Prenoti qualcosa? Ci sto pensando. Sarebbe bello stare sdraiata. Oh, sì. Con il tuo bikini. Entra, Josie, così mi libero di te. Eccola qui la vita di Josie, un essere così semplice e disarmato da vivere in perfetta armonia con l'ambiente che lo circonda. Un ambiente che si rispecchia nella sua anima, per la purezza della sua natura, ma anche per le disperate solitudini che la popolano. In entrambi i sensi, non poteva esserci scenario migliore della splendida e isolata campagna irlandese. Merito dell'intensità drammatica di Pat Short, attore di commedie teatrali e televisive di grande successo in Irlanda, certo, ma merito anche di Lenny Abramson, dubliner, classe 1966, al suo secondo lungometraggio, che sa raccontarci questa vita con i suoi ritmi lenti, con i silenzi più eloquenti delle parole. Sa suscitare nello spettatore un senso di simpatia e compassione per quel personaggio che alla fine del film vi verrà voglia di abbracciarlo. E sa raccontare molto bene quanto la nostra società della fretta e del profitto abbia depennato la difesa dei più indifesi dalle proprie priorità. E questo era Garage, un'altra delle novità, delle nuove proposte al cinema di questo fine settimana. Noi a questo punto abbiamo un'altra finestra da aprire con il DVD Game, la seconda, per farvi ascoltare un'altra traccia del film misterioso di questa settimana. Vieni da me, fagiolino. Vuoi andarci? Sì? Vale. Sai che non ti somiglia per niente? Meno male. Però è vero, non somiglia veramente a nessuno. Neanche a tua moglie? No. Ecco, quella meglio di no. Perché? Piena di grassi saturi, Camilla. Ma dai. Mi fa malissimo. Ma le piace da morire. La Rosa Purpurea @radio24.it. Se avete già indovinato di che film si tratta, più tardi ci sarà un'altra possibilità. E parliamo ora di un altro film, l'ultima proposta di questo weekend, L'amore nascosto, un film che anche in questo caso esce con 2 anni di ritardo rispetto alla sua prima presentazione, che fu più o meno contemporanea a quella di Garage, Festa del Cinema di Roma del 2007. L'amore nascosto, un cast altisonante con Isabelle Huppert e Greta Scacchi su tutti, ce lo racconta Barbara Righini. una clinica asettica e un ambiente spoglio. È lì che vive Danielle, quasi 50 anni, la protagonista di questo L'amore nascosto, tratto da un libro autobiografico di Danielle Girard. Ha tentato 3 volte il suicidio e per questo la figlia Sofia ha deciso di ricoverarla e di affidarla alle cure della dottoressa Nielsen. Danielle vive nel silenzio, senza curarsi degli altri e senza provare a comunicare. Così la psichiatra decide di provare la strada della scrittura, chiede a Danielle di confidarsi. Ecco allora che lo spettatore capisce la radice del dolore della donna. Che sensazione ha provato quando le hanno mostrato sua figlia? Non me ne importava niente che fosse mia figlia. Lei non conosce il dolore, dottoressa. Lei è un'ipocrita. Danielle non ama sua figlia, anzi la odia. Ha vissuto un'infanzia difficile, si è sposata senza convinzione ed è diventata madre senza la consapevolezza necessaria, lasciata sola nel momento più delicato della vita. Alla rottura con il marito segue il rapporto conflittuale con la figlia. Sofia è sempre stata una bambina ossuta e non proprio bella. Io sono bella. Tu non esisti, vattene. Perché mi guardi come se fossi un fantasma? Tu mi hai messo al mondo, sei tu mia madre. Mi hai sempre odiata. Sophie e Danielle, Danielle e Sophie. Il film gira tutto attorno al rapporto fra le due donne. Nessuna delle due tenta un incontro con l'altra, anzi lo scontro fra le due protagoniste si fa sempre più acceso. Un tema difficilissimo, quello affrontato dal regista Alessandro Capone, che per questo film è riuscito a comporre un cast di tutto rispetto, con Isabelle Huppert nel ruolo di Danielle, Greta Scacchi in quello della psichiatra e, a dare ancora più solidità all'operazione, anche Olivier Gourmet. Sentiamo il regista. Il tema che ci ha affascinato era appunto di parlare di un conflitto madre-figlia che una società tutto sommato molto al maschile ancora non ammette, insomma, non è permesso alla donna di dire non amo mio figlio, non la sento. Il film è tratto da un libro, ma tu come hai approcciato il tema, che appunto era difficile? L'ho approcciato con grande rispetto per la maternità, per il mondo femminile, quindi sicuramente per un uomo andare a scavare su un mondo che in qualche modo non ci può appartenere, perché certo non possiamo avere figli. È una bella sfida ed è un modo di penetrare con amore, con l'universo di chi comunque ha la possibilità di metterci al mondo, di mettere al mondo la vita. E poi c'era il senso di colpa di questa madre, che ricordiamo è interpretata da Isabelle Huppert. Assolutamente, grande senso di colpa, è un tema difficile, ha bisogno di una grande attrice. E abbiamo lottato finché non siamo riusciti ad avere Isabelle, che forse era in Europa l'attrice più grande. La Huppert è un'attrice che decide molto sulle persone oltre che del testo, quindi ha letto la sceneggiatura, poi ci ha voluto incontrare, siamo andati a Parigi con il produttore Don Cristaldi, siamo stati un intero pomeriggio a parlare molto sui contenuti e poco sul testo. Dopo che ci siamo incontrati ha detto: benissimo, adesso visto chi lo fa, chi fa il film, chi è il regista, rileggo alla luce di quello che ci siamo detti. Abbiamo aspettato un altro paio di mesi, perché lei, diciamo, ci mette molto a decidere di fare una cosa. Una volta che ha deciso, sposa il progetto ed è assolutamente dentro. È chiusa la presentazione delle novità al cinema. Noi abbiamo spazio per parlare con un ospite molto popolare, un uomo di cinema sotto tanti profili, perché è attore cinematografico, ma è anche uno dei più importanti doppiatori del nostro cinema. Stiamo parlando di Pino Insegno, che ha animato per la terza volta, per il terzo anno consecutivo, l'Oscar del doppiaggio, che si è tenuto proprio in questi giorni a Roma. È l'occasione per chiacchierare con Pino Insegno dello stato di salute del doppiaggio italiano. Allora, innanzitutto salutiamo qui alla Rosa Purpurea Pino Insegno. Ciao Pino. Ciao, grazie. Allora, perché Pino Insegno? Beh, ovviamente perché è uno dei più grandi doppiatori italiani e perché si è messo in testa, come un famoso artefice di una pubblicità, un'idea meravigliosa, quella di premiare i migliori doppiatori, perché è un'arte che in Italia, si sa, ha avuto sempre un ruolo importantissimo, grandissimi maestri, eccetera, però a volte magari viene un po' dimenticato che dietro un grande successo cinematografico ci può essere una bella voce, può essere uno degli ingredienti importanti. Allora, ti chiedo, Pino, un po' di inquadrarci quest'arte, lo stato di salute di quest'arte del doppiaggio in Italia. È ancora, allora, come ai vecchi tempi, ancora ottima? È ottima, e quello che volevo dirti è non solo il doppiatore che esce dall'ombra, ma anche tutto ciò che riguarda il contorno del doppiaggio, questa catena straordinaria che parte da un traduttore, da un adattatore, che la maggior parte delle volte è un autore importante, anche un professore universitario, dietro a questo c'è un direttore di doppiaggio, c'è un assistente in sala, c'è un fonico di sala e c'è un fonico finale di mix. In mezzo a tutto questo c'è il doppiatore, che è sicuramente l'elemento pratico di tutto quanto. Però si doppia in tutto il mondo, magari qualche paese del mondo ha qualche sala in più originale, ma ripeto, sottolineo, si doppia in tutto il mondo. E come per i libri, tu lo compri un libro di Stieg Larsson non in lingua nord europea, lo leggi in italiano, un libro di Umberto Eco in Francia lo leggi in francese. Esiste una buona e una brutta traduzione, ma non è mai cattiva la traduzione. Così il doppiaggio, esiste un buon doppiaggio e un brutto doppiaggio, ma non è mai cattivo il doppiaggio. Pino, hai detto appunto che il doppiaggio è una delle fasi di un momento in cui da una parola straniera si finisce a una parola citata, detta italiana. Ecco, nella tua carriera, per quello che hai potuto notare, è più facile fare del male o fare del bene a un film con un doppiaggio? Cioè, sono più i casi di film rovinati da un cattivo doppiaggio o esaltati da un doppiaggio riuscito bene? Messi sulla bilancia è positivo il bilancio a favore di ciò che ha fatto di bene il doppiaggio, soprattutto nel mondo del cinema, ma anche la storia del cinema italiano è stata salvata dal doppiaggio. Ci sono un sacco di chicche particolari dove addirittura i grandi doppiavano gli altri grandi. Ci sono dei casi in cui Gassman è stato doppiato in 15 film dai più grandi doppiatori, o come addirittura Mastroianni è stato doppiato da Manfredi o Manfredi da Sordi. Ti faccio un'ultima domanda, Pino. Tu sei un doppiatore con due T, perché sì, sei uno di quei casi in cui ti conosciamo anche con il tuo volto. Sì, ed è il caso anche di Francesco Pannofino, tra l'altro quest'anno, che è venuto fuori con il suo ruolo anche nel film appunto con Argentero. Ecco, ti chiedo, cosa portate dietro il vetro del doppiaggio quando andate a doppiare un film del vostro ruolo di attori invece visibili? Guarda, noi abbiamo una grande facilità nel intuire immediatamente che tipo di vocalità usare o che tipo di voce usare, che tipo di intenzione usare con la voce. Non è detto che un buon attore possa diventare un buon doppiatore e viceversa tante volte, però certo il doppiaggio è l'elemento conclusivo. Non puoi fare solo doppiaggio e non essere un attore, questo è impossibile. E certe volte, pensa, io ho dovuto ridoppiarmi perché la mia voce non stava bene su di me. È strana la cosa, ma stavo facendo lo Zio d'America 2 di Rossella Izzo, ho detto, visto che mi devo ridoppiare, quasi quasi mi do la voce che do a Viggo Mortensen, no? Visto che ci sto, mi do un'intenzione un po' più piena, eccetera. Niente, stava malissimo, non stavo bene sul mio viso, ho dovuto alleggerire un po' le cose ed essere un po' più normale, fra virgolette. Mi piacerebbe molto ogni tanto mettere sulla mia faccia la voce che ho dato a Denzel Washington in American Gangster o al Signore degli Anelli, ma la mia faccia purtroppo non racconta quell'intensità di questi grandi attori. Perfetto, grazie ancora Pino, buon grazie lavoro. A voi. La quarta e conclusiva parte della Rosa Purpurea si apre con le anticipazioni dagli Stati Uniti e con la nostra rubrica Trailer USA, che ci porta in anticipo, in anteprima, i suoni originali dei nuovi film A Stelle e Strisce. E per questo, come sempre, noi salutiamo e ritroviamo in questo caso la nostra Micaela Bellisario. Ciao Micaela. Ciao Franco, eccoci qua. Questa settimana, Micaela, parliamo di giovani coppie, di convivenza, sogni, speranze, tutto condensato in un road movie che si intitola Away We Go, opera firmata da un regista importante come il premio Oscar Sam Mendes, che tutti conosciamo per American Beauty e per l'ultimo raffinato Revolutionary Road con la coppia DiCaprio-Winslet. Allora, Micaela, cosa ci racconti della trama? La storia è quella di una coppia che scopre di aspettare un bambino. Nessuno dei due ha un lavoro fisso, non hanno una casa di proprietà, vivono a casa dei genitori di lui. Ma un giorno, appunto, i genitori decidono di mollare tutto e di trasferirsi in Belgio. E quindi questa giovane coppia si ritrova senza un tetto, letteralmente sulla testa. Ora vi facciamo ascoltare nel trailer proprio l'annuncio con questa novità. Ok, we have news. We're leaving in June. Baby's due in July. To Antwerp, in Belgium. You're moving 3,000 miles away from your grandchild. Oh, I think it's more than 3,000, isn't it, Cherry? Oh, I think so. Insomma, i due futuri giovani genitori non hanno niente da perdere a questo punto. Così una sera si guardano in faccia e si dicono, perché non cercarci il posto perfetto in cui vivere? Così decidono di fare il classico coast to coast americano, visitando di città in città amici e parenti. Un lungo viaggio, anche pieno di eventi, buffi e commoventi, che per fortuna alla fine li porterà a capire dov'è la loro casa. Ecco l'arrivo in un aeroporto e l'abbraccio con una famiglia di amici. Ah, look at you! You're so fat. Oh, good. I was almost out. Does this mean you guys will finally get married? I almost left Lowell about a dozen times. Kids don't know that. Allora vedremo se questo Away We Go sarà una delle sorprese del botteghino estivo americano. Il film è costato 70 milioni di dollari e nel cast, questo va detto, ci sono Maggie Gyllenhaal e Jeff Daniels, quindi due nomi di prima linea del cinema americano. Il film non ha ancora un'uscita italiana, ma sarà sicuramente protagonista della stagione 2009-2010. Salutiamo Micaela Bellisario. Ciao Franco, alla prossima settimana e un saluto ai nostri ascoltatori. E adesso entriamo nell'atmosfera DVD, fra poco parleremo delle novità in videoteca con Claudio Pofi. Cominciamo subito col farvi ascoltare la terza e conclusiva traccia del DVD Game di questa settimana. Io voglio chiedere al cameriere cos'è questo daikon. Non puoi ordinarlo pasta? Ma voglio capire se mi piace, no? Anche io vorrei tanto capire quello che ti piace. E dormi, se ti prego, non ricominciare, davvero. Invece ricomincio. Ma tu che cosa vuoi? Possiamo parlare in un altro momento? No, invece ne parliamo adesso. La Rosa Purpurea @radio24.it. A questo punto dovreste aver capito di che film si tratta, un film italiano che è stata una delle sorprese della stagione cinematografica che si va chiudendo. Ed è arrivato il momento di chiamare in causa il nostro super esperto di DVD, Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora, noi cominciamo come sempre facendovi riascoltare una traccia di quelle che vi avevamo proposto 7 giorni fa. Allora è sicuro che ci vai a New York? Credo di sì. Ma non ci starò molto a lungo. Ero certo che avresti rinunciato al nostro viaggio. Ma no. Lo faremo quando torno, Daniel. È inutile. Ma io lo voglio fare. Si trattava di Domenica Maledetta Domenica, il capolavoro di John Schlesinger del 1971, che è un film importante per una serie di motivi. Innanzitutto è il primo che ha affrontato la questione omosessuale calandola in una normale quotidianità, baci e amore compresi. E questo nell'Inghilterra puritana di allora, con l'omosessualità che era stata depenalizzata da pochi anni, fu un vero shock. Poi la prova degli attori, soprattutto della straordinaria e raffinata Glenda Jackson, 2 volte premio Oscar, che all'inizio degli anni 90 poi si sarebbe ritirata dedicandosi alla politica, e del Peter Finch, già protagonista di Quinto Potere, qui nei panni di un maturo e tranquillo dottore omosessuale, panni che porta con straordinaria eleganza. E ancora la regia di John Schlesinger, cui dobbiamo film come Un uomo da marciapiede e Il maratoneta, tanto per citare i più conosciuti. Uno, insomma, che sa raccontare l'epica degli uomini soli di quegli anni 70 e lo fa ricreando un'atmosfera davvero unica. Al centro della vicenda è il triangolo amoroso che vede protagonisti appunto il dottor Daniel Hirsch, Peter Finch, la divorziata Alex Greville, Glenda Jackson, e come trade union il giovane artista Bob Elkin, che si districa tra i due rapporti con disinvoltura non curante della sofferenza provocata a entrambi i protagonisti. Straordinario il momento in cui poi nel finale i due amanti con cui questo giovane ha giocato in un certo senso vengono a contatto, e quel dialogo in mezzo a un parco è davvero straordinario. Ora, Domenica Maledetta Domenica, che ottenne 4 nomination agli Oscar, arriva nelle videoteche italiane per la collana della Teodora Film Il Piacere del Cinema, nella versione integrale e rimasterizzata. Fra i contenuti speciali segnaliamo un'interessante presentazione del critico Vieri Razzini e il trailer originale. Hanno indovinato e hanno vinto Giuliana Crevatin e Franco Cipriani di Padova. Riceveranno a casa il DVD di Domenica Maledetta Domenica. Andiamo avanti con le nostre recensioni, con le novità in DVD, parlando di un film che è uscito durante la stagione cinematografica che si sta chiudendo, un film molto molto particolare, ambientato al di qua e al di là di un'autostrada. Ascoltiamo la clip. Restate di là, aspettate vostro padre! Cosa? Restate di là, vi ha preparato la merenda! Eh sì, è la storia di questa famiglia felice che vive da tempo a 2 passi da un desertico tratto autostradale, e l'asfalto è una sorta di prolungamento del loro giardino, e come un fulmine a ciel sereno l'autostrada viene inaugurata e provocherà un autentico cataclisma in genitori e figli, impossibilitati a scendere a patti con questa alienazione innescata dal passaggio dei veicoli. L'opera è l'opera prima di Ursula Meyer, una metafora dell'esistenza spersonalizzante che arriva in DVD da Perseo Video. Per quanto riguarda le immagini, c'è qualche momento in cui si avverte maggiormente un senso digitale, soprattutto nei passaggi notturni, è presente, oltre alla colonna sonora in Dolby Digital multicanale in italiano, anche l'originale francese. Come extra sono presenti interviste alla regista e all'attrice Isabelle Huppert, oltre al trailer. Questo per quel che concerne Home, il film di cui vi abbiamo appena parlato. Adesso noi andiamo a un vecchio film dei fratelli Coen, Fargo, perché arriva l'edizione in Blu-ray. Ascoltiamo la clip. Insomma, dobbiamo rapire tua moglie. Sì. Mi spieghi una cosa? Tu per il riscatto paghi $80,000, però in pratica ce ne dai soltanto 40,000 e ti tieni l'altra metà per te. Rubi dalla tasca destra per mettere nella sinistra, non ha senso. Oh, sì. Vedete, non sono io che pagherò questo riscatto. Il fatto è che mia moglie è molto ricca e suo padre possiede un sacco di soldi. Una commedia noir strepitosa realizzata dai fratelli Coen nel 1996, che ci racconta la storia di questo addetto alle vendite di un salone d'automobili. È un uomo vile, goffamente astuto, pieno di debiti, e progetta un piano mostruoso, ovvero quello di far rapire da due balordi la moglie e ottenere così il riscatto dal suocero ricco affarista. Purtroppo, proprio a causa dell'intromettersi del suocero in questa faccenda, il quale esigerà di andare a consegnare il riscatto di persona, provocherà un dramma che scoppierà proprio alla fine del film. Bene, il film arriva finalmente in alta definizione in Blu-ray grazie a Fox Home Entertainment. La spettacolarità delle immagini esaltata dalla direzione della fotografia di Roger Deakins c'è tutta, e tra l'altro sono presenti numerose tracce in DTS e ad alta risoluzione per riproporre l'intera forma sonora dell'opera. Segnalo, oltre al commento del direttore della fotografia, anche un documentario sulla realizzazione, una galleria foto, trailer e spot TV. Grazie allora Claudio per le segnalazioni delle novità in on video. Settimana prossima ancora qui alla Rosa Purpurea. A presto, un abbraccio. E siamo arrivati alla fine della Rosa Purpurea di questa settimana, la nostra ora si è conclusa, la nostra ora settimanale di cinema, l'appuntamento va al prossimo weekend, il sabato alle 18, la domenica alle 9 come sempre. Ci sarà un film che caratterizzerà il prossimo fine settimana, si intitola I Love Radio Rock, con un grande Philip Seymour Hoffman e una colonna sonora davvero straordinaria. Ne parleremo qui alla Rosa Purpurea, grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisti.